Avete appunto esplorato e fotografato la Bolognina per prendere ispirazione per la vostra collezione di streetwear. Quali sono i colori che prevalgono e quali sono gli elementi che vi hanno maggiormente colpito e da cui trarre ispirazione? I colori che prevalgono sono il giallo, il nero, l'arancione, il rosso, il verde, il bianco, il blu e il viola. Abbiamo appunto esplorato il quartiere della Bolognina perché ci siamo resi conto che, siccome è un quartiere che è molto messo da parte, che non viene più messo in considerazione, in realtà abbiamo scoperto che ci sono tante cose belle, positive, quindi attraverso questa linea d'abbigliamento è appunto un omaggio per far riprendere vita la Bolognina. Quali sono le persone che avete intervistato o cui avete fatto domande? E abbiamo intervistato maggiormente le persone che frequentano il quartiere e chi ci abita e chi ci vive e chi lo frequenta quotidianamente. Inoltre avete appunto detto che la sostenibilità e l'inclusività sono i due elementi su cui vi siete basati per fare la vostra collezione. Potete spiegarmi meglio di cosa si tratta, da dove avete preso queste idee, chi vi ha ispirato? Allora, essendo la moda comunque il secondo settore al mondo che inquina di più, abbiamo pensato che uno dei pilastri della nostra collezione dovesse appunto essere la sostenibilità e appunto il rispetto per l'ambiente. Infatti tutti i nostri capi sono di cotone biologico e comunque ci siamo ispirati per la collezione, cioè i pezzi che poi vedremo alla sfilata, sul fatto del poterci giocare e interscambiare vari pezzi di, ad esempio, una singola maglietta, poterne con una averne ad esempio due, scambiando pezzi e componendo i capi. Perfetto, infatti ho letto anche che per quanto riguarda l'inclusività è l'identità a fare il modo di vestire e che i vostri sono vestiti adatti a tutti i generi. Volete dirmi qualche parola in più? Semplicemente avevamo pensato appunto di fare una linea più inclusiva, da così poter essere indossata da chiunque e in qualunque modo. Il lavoro è continuato anche durante la pandemia, durante il lockdown, non senza difficoltà. Come avete lavorato in smart working, che attività avete fatto e quali sono le difficoltà che avete incontrato maggiormente? All'inizio abbiamo incontrato delle difficoltà perché appunto non potevamo incontrarci per appunto lavorare, cioè la parte pratica della linea. Quindi grazie a Luca Padova e Anna Romani si sono inventati di fare questo webinar, che era composto da queste storie in cui si collegavano delle persone del mestiere, del campo della moda, in cui raccontavano le proprie esperienze e il proprio lavoro e quello che stavano creando. Quindi comunque questa è stata comunque una sorta di formazione, quindi non ci siamo fermati del tutto. Abbiamo fermato la parte pratica, ma la parte formativa no. E infatti questo progetto è una formazione, quindi anche un'esperienza personale e anche a livello lavorativo, perché ci ha messo alla prova. Siete giovanissimi, comunque avete 17-18 anni, provenite da varie scuole. Cosa vi ha donato questo progetto per il futuro? Mi spiego meglio. Quali idee che avevate prima sono cambiate, si sono modificate nel tempo? Quali aspirazioni avete adesso, magari più grandi di quelle che avevate prima? Insomma, se volete un po' parlarmene. Io sicuramente ho ampliato le conoscenze dell'economia e ho messo in pratica, diciamo, ciò che studio quotidianamente tutti i giorni, e ho imparato le difficoltà che ci sono dietro questo business. Ho conosciuto tanti nuovi amici, ragazzi con cui mi trovo molto bene e mi ha donato tanto. E invece per quanto riguarda i vostri progetti per il futuro? Finite le scuole superiori mi piacerebbe intraprendere il cammino dell'accademia. Vorrei specializzarmi appunto in fashion design e poi lavorare nell'ambito della moda. E questo progetto mi ha dato la conferma che è quello che amo più fare, che voglio assolutamente fare nella mia vita. Quindi penso che questo appunto non sia un punto di arrivo, ma sia l'inizio di un grande sogno. Io invece per il futuro avevo intenzione di intraprendere un percorso sempre economico, però più incentrato sulla lingua inglese, e ho scelto di fare questo progetto non con un obiettivo preciso. Volevo più che altro sperimentare nuove esperienze e sicuramente questo mi ha dato molto. Faccio una domanda a voi che comunque avete gestito la parte di style, design, moda. è stato difficile pensare a dei capi d'abbigliamento che fossero interscambiabili? Com'è che vi è venuta l'idea? Sì, all'inizio è stato un po' difficile. L'idea ci è venuta in mente così, cioè quando stavamo facendo degli schizzi, non mi ricordo adesso la ragazza in questione, e cioè è partita questa cosa qua e quindi da lì... Ovviamente all'inizio non è facile, le idee non arrivano subito, bisogna buttare giù schizzi su schizzi, fogli su fogli, però alla fine ci siamo riuscite e questa è la cosa che ci entusiasma e ci rende più felici, quindi la missione è compiuta, diciamo. E più che altro non è stato semplice all'inizio, perché appunto dovevamo trovare delle cose che piacessero più o meno a tutti, e anche se comunque è un concetto un po' difficile, ecco, accontentare tutti. E poi questo ci ha dato anche modo di conoscere di più quello che è il quartiere della Bolognina, che è molto sottovalutato e molto, diciamo, considerato un quartiere negativo, ecco, con molti aspetti negativi. Invece grazie a questo progetto abbiamo cercato di valorizzarlo di più, quindi andando anche in giro, facendo le interviste, trovando anche degli aspetti positivi e valorizzarli. Io vi ringrazio per questa intervista, in bocca al lupo, buona fortuna per tutto. Grazie.